Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon che oggi torna sull'Associazione Pionieri Italiani, che ha irrorato anche di esperienze didattiche innovative alla scuola italiana. Succede in un piccolo comune laziale, nel Reatino, siamo nella Sabina, dove l'allora sindaca Katia Cinanni, in tra virgolette combutta con Carlo Pagliarini, fondatore dell'Associazione Pionieri Italiani, dà vita alla città dei ragazzi attraverso un iter burocratico legislativo anche complesso, che dà forma a una direttiva dell'Unione Europea sui minori e il diritto all'istruzione e l'autodeterminazione. Morena Moretti ha appunto raccolto con le testimonianze di Katia Cinanni, peraltro antica pioniera, su quell'epopea che oggi in qualche modo deve far riflettere, dove vedono il rapporto docenti-alunni più sulla coercizione che non certo che sulla partecipazione. Dopo lo stacchetto musicale, la parola a Katia Cinanni ai microfoni di Morena Moretti. Katia Cinanni, tu alla fine degli anni 90, come sindaca di Montopoli di Sabina, desti vita nel tuo comune ad un piano comunale per l'infanzia. Ci puoi raccontare quale fu il percorso che vi portò a questa proposta? Questo iter che abbiamo attuato, chiamando a lavorare molte delle associazioni che erano presenti sul territorio, comprendendo fra le altre associazioni culturali, ma anche i referenti della ASL, anche lo stesso parroco, che aveva un grande ruolo nel occupare i bambini nel suo oratorio, l'assistente sociale del comune, che era un servizio che avevamo attivato noi da pochissimo, e la cosa prese le mosse dall'intenzione di dare la massima pubblicità a questo documento importantissimo che l'ONU aveva emanato nel 1989, che era la Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini. In Italia la convenzione era stata recepita e resa esecutiva nel 1991. Nel 1995 iniziò quella della mia giunta, del mio consiglio comunale. Una delle cose che volevamo fare era fare sì che giovani ragazzi di questo paese di 5.000 abitanti, che si trova nella bassa Sabina Reatina al confine con la Sabina Romana, i ragazzi conoscessero e valorizzassero il territorio in cui vivevano, e da loro stessi nascessero le proposte che li rendessero appunto parte attiva nelle scelte che li riguardavano, in virtù del fatto che alla base della Convenzione dei diritti dei bambini c'è proprio l'ascolto, quelle misure che rendano i bambini protagonisti. Quindi voi avete istituito un consiglio comunale dei ragazzi? Allora, diciamo che in quel periodo, ad opera del Ministero degli Affari Sociali, che all'epoca era guidata da Livia Turco, e stiamo parlando del primo governo Prodi. Il governo Prodi si insediò nel 96 e quindi ho istituito questo ministero con a capo la Livia Turco, e che presentò questo disegno di legge. Si chiamava Disposizioni per la promozione dei diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, che fu poi convertito nella legge 285 del 97. Questo provvedimento era importante perché quadrò nell'ambito di un accordo di programma denominato Piano di Azione del Governo per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ed era importante questo piano d'azione, perché piano d'azione significava che intanto tutti i ministeri che avevano a che fare in qualche modo con l'infanzia e l'adolescenza venivano erano chiamati in questo comitato di ministri che fu costituito, che era coordinato dal ministro per la solidarietà sociale, nella persona di Livia Turco, e che assicurava l'armonizzazione degli interventi e soprattutto la cosa importante è che venivano messe a disposizione risorse. E tutta questa operazione vedeva l'infanzia e l'adolescenza al centro come protagonista delle politiche che le riguardavano. Insomma. Quindi ci fu, diciamo, un salto di qualità in quel momento, che oggi probabilmente non c'è, è un po' finita questa esperienza, però in quel momento ci fu questo salto di qualità per cui si mise al centro il bambino e il ragazzo, pensando che fossero comunque non più appunto oggetti, solo oggetti di tutela, ma potessero diventare protagonisti, potessero cominciare a diventare protagonisti e scegliere anche. Esattamente, anche perché in quel periodo erano cominciato tutto quel fenomeno delle migrazioni sia dai paesi dell'est che dal sud Europa, ed era anche necessario attivare politiche che valorizzassero queste differenze culturali e anche di genere. Katia, in questo lavoro partecipò anche Carlo Pagliarini, già in aiuto del Ministero, perché si costituì una commissione dove lui era presente come rappresentante dell'Arci Ragazzi, anzi ricordiamo che lui fondò l'Arci Ragazzi e ne fu anche presidente per diversi anni insieme ad altre associazioni, quindi furono coinvolte le realtà che già operavano nel territorio, e questo lo faceste anche voi nel vostro comune primi. Per quanto riguarda Carlo Pagliarini, lui entrò in questo comitato interministeriale che appunto vedeva la presenza non solo dei ministri ma anche di tutte quelle associazioni che all'epoca operavano nel campo di cui stiamo parlando. Carlo Pagliarini era presente come associazione Democrazia in Erba, perché era anche quello il periodo in cui si costituivano i consigli comunali dei ragazzi, proprio per indurre, aiutare i ragazzi ed educarli anche all'esperienza della partecipazione nell'ambito delle amministrazioni della politica. Si parlava di cittadini di domani e di cittadini di oggi, ma non cittadini di oggi principalmente per fondare cittadini di domani, cittadini di oggi in quanto bambini e cittadini di domani in quanto, fra le altre cose, avendo fatto esperienza sul campo e fossero pronti per impegnarsi di poterlo fare con maggiore facilità. Purtroppo, finita quell'esperienza, sono finiti anche i consigli comunali dei ragazzi e devo dire la verità, con un po' di amarezza devo riconoscere che oggi la nostra classe politica non si è educata in quel periodo. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che è da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti. Lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista e ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani. E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse da buon opportunista. Si è adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso il conformista. È uno che volteggia tutto tondo, prende l'insistenza il conformista. S'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole e da conversazione. Di notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi largo calleggiando il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, erso marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi son trovato americanista. Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Il conformista aerostato evoluto che gonfiato dall'informazione è il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta, e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista. Il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista, sono il nuovo conformista. I nostri ragazzi fecero anche, fondarono anche un giornalino. Che nel nostro comune c'era questa appunto tradizione di rendere partecipi e di coinvolgere tutte quelle realtà sociali e culturali, e quindi la cosa che facemmo fra le altre fu quella di invitare Carlo Pagliarini come Democrazia in Erba a farci da tutore questa esperienza. Tra l'altro Carlo Pagliarini per me era una vecchia conoscenza, perché nella mia infanzia io avevo fatto parte dell'Associazione dei Pionieri d'Italia, di cui Carlo Pagliarini insieme a Gianni Rodari ed altri era stato l'animatore, e in fasi alterne per lui è sempre stata una presenza nella mia vita, e per cui mi è sembrato proprio quasi un segno del destino fare questa esperienza con lui. Il primo atto fu quello di approvare un piano per l'infanzia, perché nella stessa legge, alla 285 di cui parlavo prima, era previsto il piano nazionale per l'infanzia e a cascata il piano regionale, il piano provinciale e i piani comunali per l'infanzia. E quindi noi attivammo tutta la procedura con la Regione Lazio e poi con tutte le istanze presenti nel territorio comunale per arrivare alla costituzione di questo piano per l'infanzia. Quindi si costituì, dopo il piano comunale per l'infanzia, si costituì il consiglio comunale regolarmente eletto, parteciparono i ragazzi delle tre classi delle scuole medie inferiori, la quarta e la quinta elementare, le scuole presenti sul territorio comunale, e quindi fu eletto questo consiglio dei ragazzi che si dette le sue regole, perché fu approvato lo statuto e misero in piedi tante attività, e fra queste c'era quella della stesura del giornalino, che era la Gazzetta dei Ragazzi di Montopoli di Sabina. Furono appunto seguiti dal bibliotecario del comune, dall'assessore alla cultura, spesso da me in prima persona, e poi ci fu spesso e volentieri la presenza di Carlo Pagliarini. Quindi Carlo Pagliarini appunto fu conosciuto dai ragazzi e molto apprezzato, tant'è che tu mi raccontavi che quando Pagliarini purtroppo morì, e fu proprio in quel periodo i ragazzi in questo bollettino, in questo gazzettino, vollero dedicare proprio a Carlo un numero. Sì, dedicarono a Carlo Pagliarini un numero speciale e raccontarono la sua storia di vita inquadrata nella storia del nostro paese, perché loro dicono Carlo Pagliarini fa parte della storia che ha visto le lotte e i sacrifici del nostro popolo, raccontando come lui aveva fatto parte del fronte della gioventù durante la guerra di liberazione e come dopo la guerra si fosse impegnato nelle politiche per giovanili e come nel 1949 fondò insieme a Gianniero Dari, Dina Rinaldi ed altri l'Associazione dei Pionieri d'Italia. Quindi con Carlo fecero anche questo racconto, cioè lui raccontò e loro erano, considerato che stiamo parlando del 98, e dopo tanti anni in questo piccolo paese della Sabina si parlava ancora dei pionieri. E vorrei finire con un bellissimo ricordo che questi ragazzini di 11, 12, 13 anni scrissero, lasciarono a testimonianza della loro amicizia con Carlo Pagliarini. Dicono questo: nel giorno del nostro insediamento, parlano ovviamente dell'insediamento del loro consiglio comunale, abbiamo avuto l'onore di conoscere uno dei più grandi educatori degli ultimi tempi, Carlo Pagliarini. Nell'intervento finale ha contagiato tutti con le sue parole e ci siamo immersi nel fascino delle sue convinzioni. Quando siamo usciti ci sentivamo più forti, forse perché avevamo respirato la passione di una vita dedicata al servizio dell'infanzia ed eravamo finalmente consapevoli di rappresentare l'energia della nostra società. Carlo Pagliarini è venuto a mancare lo scorso anno, lasciando un grande vuoto tra i ragazzi del mondo. No! Potrei abbracciare tutti voi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Voi sapete che nel mondo c'è chi prega per noi. Non piangete perché c'è chi veglia su di noi. E dico ciao amici miei, e voi con me direte ciao, amici miei, direte ciao. Ai, ai. Ai, ai. La mia voce sarà mille voci perché voi cantate insieme a me. Ciao, voglio dirvi che vorrei per me grandi braccia, perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. E